La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 50 secondi qui la versione di Oscar e il conduttore omonimo di Salute e vi ringrazio come sempre per l'ascolto in diretta e in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per nuove disponibilità segnalate a intervenire nella nostra serie. Facciamo più o meno due puntate a settimana via dall'Italia per i giovani e meno giovani che o lo hanno fatto e non tornano, o lo hanno fatto e sono tornati e ci dicono perché, oppure consapevoli del fatto che altrove vada meglio ma comunque ritengono, per una ragione che ci spiegano a quel punto, di restare qua. Scrivete, ne abbiamo per settimane, a due puntate a settimana, ma sono tutte storie, una più, devo dire la verità, ricche di significato dell'altra, perché naturalmente le vite vissute raccontano meglio che i meri numeri. Oggi abbiamo avuto nuovi aggiornamenti dell'andamento del mercato del lavoro e da questo punto di vista devo dire che sono a conferma di quello che già sappiamo, cioè come bisogna dire, non voglio ferire nessuno convinto che il Jobs Act sia stata la rivoluzione, ma insomma gli occupati aggiuntivi sono sempre solo over 50, per i giovani non c'è né, e dopodiché l'aumento dell'occupazione è praticamente finito, la disoccupazione giovanile risale e la disoccupazione generale resta al 12%. Non voglio dire, perché lo ripeto da prima che ci fosse la decontribuzione, che questi quasi 20 miliardi di decontribuzione avrebbero avuto un'allocazione diversa a seconda delle impostazioni e dei pensieri, ma sicuramente diversa, ma comunque con un maggior apporto alla diminuzione del prodotto potenziale italiano, dell'output gap, voglio dire il prodotto potenziale italiano, per alzare il PIL in più, se avessimo fatto altre scelte, ma questa resta la mia opinione. E però i numeri più o meno questo dicono. Non significa disconoscere che siamo in presenza di 500.000 e rotti, quasi 600.000 nei due anni occupati in più, questo non vi è dubbio. Stiamo parlando del fatto che negli ultimi dati, quelli di stamane, l'occupazione a tempo parziale, a tempo determinato, torna ad avere il segno più, e quindi da questo punto di vista niente giovani, contratti a tempo sono un bilancio su cui interrogarsi, su come abbiamo utilizzato quei quasi 20 miliardi. Ma non parliamo di questo, bensì comunque di qualche cosa che ha a che vedere molto profondamente con la domanda: ma come funziona davvero il mercato del lavoro italiano per quello che riguarda le retribuzioni? Ecco, stamattina un titolo del Corriere, che trovate anche rilanciato dal sito, ha attirato la mia, come di tanti altri, attenzione. Il titolo che trovate sul sito del Corriere dice: stipendi, un italiano su 10 guadagna sotto il minimo. Dopodiché aggiunta, che sembra un paradosso, sud meglio del nord. Allora, poiché questa ricerca è stata elaborata da un ricercatore economista italiano che lavora all'OCSE, è un economista all'OCSE, ma è una ricerca sua su andamenti delle retribuzioni reali rispetto ai salari minimi definiti nei contratti in Italia, e che quindi ha lavorato sulle diverse fonti che sono necessarie per elaborare questi numeri, cioè la rivelazione sulle forze di lavoro Istat 2008-2015, le dichiarazioni dei datori di lavoro e i dati INPS sulle comunicazioni delle imprese per il pagamento dei contributi. E si è posto questo problema, ma rispetto ai minimi contrattuali, quindi stabiliti categoria per categoria nei contratti, che cosa ci dicono i dati reali, i salari reali rispetto ai minimi contrattuali? Domanda. Sono in linea? Come vedrete, come si capisce dal titolo, la risposta è no. E allora la domanda diventa: perché? Poi, seconda domanda, per chi non sono in linea? tanto ponendosi il problema per genere, uomini, donne, quanto poi per coorti di età, quanto poi geograficamente, nord e sud. Ecco, capire bene come funziona il mercato delle retribuzioni rispetto a un andamento teorico dato dai minimi contrattuali aiuta a capire, secondo me, tre cose. Primo, ma questa è un'opinione mia, credere che per dirigismo si annullino le curve di costo reali nel lavoro si rivela sempre infondato. Vediamo se il ricercatore è d'accordo, ma io sono convinto di questo. Sapete che noi abbiamo considerato nell'evoluzione dell'istituzione dei contratti nel nostro paese nel tempo l'abolizione delle gabbie salariali come un punto di conquista dei diritti, cioè l'omologazione nazionale, no? Dei minimi contrattuali e degli aumenti contrattuali. In realtà le curve di costo restano, sono diverse nel nostro paese e quindi il potere d'acquisto è diverso a parità delle retribuzioni. Come vedremo, infatti le retribuzioni sono diverse rispetto ai minimi contrattuali. Primo punto. Secondo punto, dai dati che adesso il ricercatore ci illustra, bisogna dedurre che è fisiologico questo disallineamento per cui un italiano su 10 guadagna sotto il minimo o è patologico? Che cosa ci indica? E terzo, ovviamente, chi ci guadagna e chi ci perde e perché? Quindi ha a che vedere anche con la redistribuzione, oltre che con l'equità e con l'efficienza. Breve pistolotto iniziale per presentarvi l'autore, il ricercatore dell'OCSE che ha elaborato questi numeri. Andrea Garnero, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a voi. Innanzitutto giustizi in maniera spietata qualunque fesseria abbia detto fino a questo momento. No, direi un ottimo riassunto. No, riassunto no, perché tutti i numeri sono quello che importa. Innanzitutto posso dirle una cosa, ci spiega perché c'è bisogno di una ricerca ad hoc fatta da lei, visto che queste cifre dovrebbero essere rilevate pubblicamente, secondo me, per avere un'idea di come funziona davvero il mercato del lavoro? Perché non lo sono? Ma perché in realtà sì, dovrebbero essere, ma non è mai stato fatto. I contratti collettivi si trovano sul sito del CNEL, che continua a lottare e vivere insieme a noi, ma non sono disposti in maniera molto leggibile, sono PDF in link diciamo più o meno complicati da consultare. Non esistono statistiche che riassumano in valori leggibili da persone normali, diciamo che non fanno i giuristi del lavoro o gli economisti come professione principale, e comunque anche per i professionisti del settore pochi hanno lavorato, pochi hanno accesso a queste informazioni perché appunto sono sparse negli 819 contratti collettivi che abbiamo attualmente in Italia. Viva l'Italia! Viva l'Italia che quando vuole riesce a far diventare incomprensibile ciò che dovrebbe invece orientare l'azione pubblica. Cari sindacati, ce l'ho anche con voi, innanzitutto, mica solo con le istituzioni della statistica pubblica. Per me è incomprensibile, io batto le mani a Garnero, però diciamo questa cosa dovrebbe essere fatta in maniera seria, rigorosa, sistematica nel tempo da decenni. Punto. Allora, iniziamo a dire ai nostri ascoltatori che cosa si scopre. Si scopre innanzitutto che in alcuni settori chi guadagna meno rispetto al minimo contrattuale, sono proprio tanti. Certo, tipo... sono il 10% circa che guadagna il 20% in meno, cioè che significa in euro, significa che se il minimo è 1000 guadagna 800, quindi 200 euro che vengono a mancare ogni mese. In media, ovviamente, parliamo sempre di media, ma un lavoratore su 10 perde 200 euro al mese rispetto a quanto dovrebbe, detto facendo un esempio, diciamo, ma sono cifre grosse, quindi. Allora, non sono io adesso elenco la tabella che ha pubblicato il Corriere, che do per scontato sia corretta, perché non ho il suo originale in mano, però, per dare un'idea a chi ci ascolta di quanti guadagnano in meno rispetto al minimo contrattuale settore per settore. Nell'agricoltura il 31,6%, secondo le cifre elaborate da Garnero, degli addetti in agricoltura guadagna meno rispetto al minimo contrattuale, 1 su 3. Nella cultura e nello sport il 30,9%, nella ristorazione e negli alberghi il 20,7%, nell'immobiliare e nelle professioni, anche nelle professioni, il 15,5%, nell'istruzione il 15,1%, nel commercio l'11,8%, nel credito 10,2%, quindi qui iniziamo a entrare in media. Dopodiché ci sono le categorie nelle quali invece a guadagnare meno rispetto ai minimi contrattuali siamo sotto la media, quindi chi se la passa meglio: sanità 8%, trasporti più o meno idem, costruzioni il 7 qualche cosa per cento. Io avrei detto molto di più, a dire la verità, nelle costruzioni, quindi evidentemente mi sbaglio io, ma insomma mi sembra uno dei mercati del lavoro meno insomma più informali di quelli che ci sono in Italia. Poi evidentemente mi sbaglio. Informatica il 7%, pubblica amministrazione guarda caso il 4,1%. Il guarda caso naturalmente è un mio commento sardonico, ma come dire, è di tutti sotto insieme al mercato del lavoro la pubblica amministrazione è quella che ha il minor discostamento. Come mai in alcuni settori arriviamo a oltre il 30%? Le spiegazioni sono diverse. Innanzitutto valori diversi dei minimi che cambiano appunto da settore a settore. Appunto, dicevo, abbiamo 819 contratti, quindi una grandissima varietà, e poi un tipo di magari di utilizzo di manodopera diversa, perché esistono modi alternativi e variegati di pagare meno del minimo. Esistono modi illegali, il nero, oppure chiedere alle persone di lavorare di più gratis, di fare ogni giorno mezz'ora, un'ora di straordinario senza retribuirla, ma esistono anche modi legali di pagare meno del minimo, e per quello ad esempio che le professioni hanno un valore piuttosto elevato. Si può ad esempio usare contratti atipici che non sono sottoposti ai minimi contrattuali e ai contratti collettivi nazionali, e permettono appunto legalmente, perché legalmente non sono sottoposti ai minimi, di chiedere di fatto un lavoro che con una retribuzione oraria inferiore a quello che sarebbe stabilito nel contratto nazionale. Oppure ancora lo sviluppo di contratti pirata, i cosiddetti contratti pirata, cioè firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non rappresentative, quindi non la triplice Confindustria, Concommercio eccetera eccetera, ma sindacati e datori di lavoro che in maniera un po' farlocca si mettono insieme e firmano un contratto. Questo è legale, a patto che rispetti i minimi di legge, visto che in Italia minimi di legge salariale non esistono, diciamo liberi tutti, e quindi legalmente in qualche modo è possibile pagare meno dei minimi contrattuali. Dà un'idea a chi ci ascolta e non è esperto di tipologie contrattuali, da quanto a quanto può variare nei diversi contratti nazionali di settore il minimo che, ripeto e sottolineo quello che ha detto, da noi non c'è un minimo salariale nazionale, c'è il minimo che stabilisce per intesa tra le parti nel contratto, ma da quanto a quanto può variare nell'Italia del 2015? Perché nel 2015 va più o meno da 7,50 euro, che casualmente è il valore del voucher, a più o meno 13,80 euro, più o meno, in questo per i principali contratti. Io ne ho recensiti 90, appunto, anche per evitare non di, poco però perché c'è una forbice che è quasi, insomma, valore 100%. Questo in qualche modo sarebbe la cosa giusta, cioè certo. Noi dobbiamo deve prendere in considerazione l'agricoltura come la finanza, non quindi è dubbio. Normale che ci sia una certa differenziazione. Il punto è se la differenziazione è sufficiente a riflettere differenze settoriali, differenze regionali e differenze di impresa all'interno dello stesso settore, stessa regione. Sorpresa, ma in realtà, alla luce del punticino che avevo messo all'inizio, mica tanto sorpresa, perché se andiamo a vedere nei numeri elaborati da Garnero che cosa concretamente significa il salario reale definito ai minimi contrattuali nelle diverse regioni, cioè se facciamo il calcolo rispetto ai prezzi delle varie regioni italiane, dei vari territori, rispetto al valore nominale, no? Dei minimi parametrati, e così stabiliamo chi ha più o meno potere d'acquisto in realtà nel territorio in cui opera, lavora e vive, pur a parità, per così dire, di pagamento. Cosa scopriamo? Che nel sud i salari sono più alti. Che è esattamente il contrario di quello che, diciamo, uno si potrebbe aspettare dato il livello di sviluppo economico e di costo della vita in generale. Allora, a questo punto io non devo stornearlo a lei, visto che lavora in una grande prestigiosa istituzione internazionale e sa qual è la reazione immediata del pubblico generalista quando si dicono cose di questo genere. Cioè, si corrono due rischi. Primo, di sembrare pregiudizialmente ispirati da chissà quale complesso nordista irrisolto nei confronti del sud che ci impoverirebbe. No, non è questo. B, invece, al contrario, la reazione di chi ci ascolta da sud, che dice: ma che cavolo dite, qua in realtà, guardate i numeri della disoccupazione, qua si paga meno che altrove. Perché non sono giuste nessuna di queste due cose? Ma in realtà ci spieghi un secondo come è una misura questa dei dati elaborati per cui al sud si guadagna di più. Quando dico di più significa che c'è una forbice apprezzabile, superiore al 10% tra sud e nord, mi corregga se sbaglio. Sì. Questa è l'espressione di una efficienza allocativa del salario rispetto alle diverse curve di costo e di prezzo territoriale, oppure è una stortura che appesantisce l'economia italiana? No, ovviamente c'è qualcosa che non va, ecco, prima di dare diciamo, un giudizio secco dovremmo forse concordare che onestamente qualcosa non funziona, ecco, perché come penso tutti gli ascoltatori immaginino, è normale che in un posto in cui c'è più forza di lavoro, quindi c'è più offerta di lavoro, è più facile trovare lavoratori, e in generale i salari dovrebbero essere un po' più bassi, perché c'è più i lavoratori sono disponibili a lavorare di più, e quindi per normale effetto domanda-offerta i salari dovrebbero costare un po' di meno. Questo non è così, ma questo non è revanchismo nordista, anche se onestamente io sono del nord. No, ma anch'io, però. Perché in realtà commentando questo va a svantaggio del sud. Questo va a svantaggio del sud, questo va a vantaggio del nord. Significa. Spieghiamo questo punto che è centrale. Perché guadagnare il 10% in più al sud è uno svantaggio per il sud? Perché uno direbbe il contrario, no? Invece. Prendiamo, non so, il caso famoso della Fiat che ha fabbriche al nord e al sud. Beh, perché andare a installare una fabbrica al sud in cui il costo del lavoro nominalmente è lo stesso, certo. Quindi deve pagare lo stesso a Melfi come a Torino, a meno che faccia come ha fatto accordi diversi, ma diciamo se si rifà il contratto nazionale deve pagare lo stesso salario, quando poi i costi di trasporto da Melfi maggiori, centro Europa, logistica, sono eccetera. Maggiori, ci sono altri aspetti su cui magari non approfondiamo, ma che rendono la produzione al sud più complicata logisticamente, di sicurezza, legalità, di performance in alcuni casi, almeno così la dirigenza Fiat si lamentava, e quindi significa che comunque a prescindere al sud il costo è esattamente lo stesso, mentre al nord che è i salari non si aggiustano, anche questo fa in realtà la doppia beffa, cioè spiega come è possibile che i salari in Italia siano bassi, perché la gente si lamenta, fa sempre la comparazione, la Germania eccetera eccetera. Esatto, i salari sono bassi, sì, perché effettivamente al nord alla fine rispetto al costo della vita per una persona che lavora a Milano e vive a Milano, magari in centro a Milano, il salario non basta, perché non basta vivere, mentre lo stesso salario è ovvio che in un paesino del sud basti a sufficienza a pagare l'affitto e la vita quotidiana. Quindi questo innanzitutto punto numero uno, non è una situazione che va a vantaggio del sud di sicuro. Il secondo punto è: perché questo succede? Beh, questo succede perché i contratti nazionali fissano delle scale salariali che vanno molto dettagliate a livelli di entrata e poi a seconda delle occupazioni, della seniority eccetera eccetera, dei salari che però sono gli stessi da Reggio Calabria a Bolzano, e quindi è ovvio che debbano tenere in conto un po' tutto, ma tengono soprattutto in conto chi li negozia. Chi è che li negozia? Li negoziano imprese medio-larghe del centro-nord. Esattamente, questo sono molto completamente d'accordo con lei. Adesso, dopo il traffico, passiamo dal descrivervi alcuni dei risultati abbastanza sorprendenti, ma per chi segue il mercato del lavoro non troppo, però sono precisi finalmente, e grazie a Garnero per darceli. Passiamo alla parte Construence, cioè che cosa ricavare da questa situazione di un italiano su 10 in media tra i lavoratori dipendenti che sta sotto i minimi contrattuali, categorie in cui addirittura 1 su 3. Questo divario molto forte tra nord e sud, il sud apparentemente avvantaggiato, in realtà svantaggiato, perché sarà più costoso, significa che meno gente è disposta a investire e aprire là, per essere chiari, mentre si penalizza la parte più produttiva. E quindi, una volta che abbiamo questi dati, che cosa ricavarne? Strade innanzitutto. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... La versione di Oscar. Allora, studio di Andrea Garnero, economista OCSE, su andiamo a vedere davvero, prendiamoci gli 800 rotti contratti del lavoro, visto che i salari minimi si fissano nei contratti e non per legge nel nostro paese. Io sono a favore dell'autonomia delle parti, ma detto questo, varianza forte da settore a settore, si va dai 7,5 quasi a 14, varianza fortissima nei settori in cui c'è gente pagata molto meno in realtà dei minimi. Agricoltura, cultura, un terzo è sotto i minimi, varianza molto forte nell'arco di un decimo, il sud si paga in realtà, si guadagna di più rispetto al nord. Ci siamo dimenticati la differenza di genere, però, che invece è fondamentale. Chi ci rimette tra uomini e donne questi dati alla mano, Garnero? Ci rimettono sempre le fasce più deboli, cioè le donne. Perché in Italia le donne, le persone poco qualificate, che nelle imprese piccole, i contratti temporanei, i soliti sospetti, cioè la pagano sempre i soliti. Quelli a favore dei quali stiamo facendo la serie di trasmissioni Italia non per giovani, eccetera, eccetera, non a caso, perché ripeto che poi bonus, chi sta in povertà assoluta e chi è più giovane, chi è donna, eccetera, insomma non li abbiamo concentrati là. Però detto tutto questo, non cambiamo argomento, fate attestate queste cose nella sua ricerca, che cosa desumerne come indicazioni per l'agenda politica? Perché lei, sul Corriere della Sera ho letto, dà 3 indicazioni a costo zero. Sì, anche qualcuno in più in realtà, volendo. Esatto. Cioè un capitolo che non apriamo sarebbe discutere seriamente della riforma della contrattazione collettiva in Italia. Ne parliamo da 20 anni, tutti, ognuno con il proprio punto di vista diverso, sono d'accordo, però non troviamo un punto d'accordo, e questo lasciamo al governo, diciamo, è indicato tra i punti nella lista della spesa del Jobs Act, l'abbiamo promesso all'Europa un paio di volte. Lascio il Confindustria, sindacati e il governo lavorare su questo, perché mi interessa di più proporre un paio di idee a costo zero e secondo me a costo anche politicamente zero o quasi zero. Il primo sarebbe innanzitutto semplificare un po' il sistema. 819 contratti con un aumento di quasi, con contratti che sono praticamente raddoppiati negli scorsi 5 anni, dimostra una patologia del sistema, non significa un particolare attivismo e salute del sistema di contrattazione collettiva, al contrario, significa che ci stiamo spezzettando in mille settorini, mille contrattini, non tutti forse appunto pienamente rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro. Quindi prima cosa semplificare. Aspetti, io ci metto un caveat, calcolatori, non equivocate, io sono favorevole alla contrattazione aziendale integrativa e anche pienamente in deroga. Noi non stiamo parlando di contratti aziendali, noi stiamo parlando di 800 rotti contratti nazionali, non so se vi è chiaro, sono due cose diverse. Quindi semplificare i contratti nazionali, uno. Poi per curiosità, così per divertimento pomeridiano, le dico che ci sono contratti per i sacrestani, sì, contratti sì, per i coach emozionali, quindi c'è veramente un po' di tutto, ecco. La seconda cosa è assicurare che i contratti siano firmati da organizzazioni che rappresentano qualcuno. Aia, ecco. Aia, e qui entriamo in un terreno delicato. No, io non direi aia, perché il governo, come la triplice e Confindustria, diciamo, e le grandi imprese datoriali, Confcommercio, Confartigianato, eccetera, eccetera, sono d'accordo, perché rappresentano. No, un momento. No, noi abbiamo dei protocolli interconfederali tra datori e sindacati e grandi confederazioni del settore privato, ce l'abbiamo da anni. Nel pubblico, come sa, il recepimento delle soglie di rappresentanza, uno, il recepimento delle soglie per l'esecutività dei contratti, il recepimento delle soglie per il godere dei diritti sindacali, eccetera, eccetera, lì è un altro paio di maniche rispetto al privato. Sì, ma comunque nel senso il nodo principale, come dicevamo, è nel privato, ecco, perché nel pubblico la questione per fortuna è residuale, ecco. No, nel pubblico il fatto che non valgano quelle soglie significa che c'è una conflittualità e una devastante introduzione dei servizi al cittadino. Ah, un altro paio di maniche, ma non quello, non quello della retribuzione, certo. Quindi questo sarebbe un po' il secondo punto. Il terzo punto è un'ovvietà, però così non è, significa rendere informazioni facilmente accessibili e disponibili. Risata da parte mia. Quindi, perché sono d'accordo. Allora, un'ovvietà. Andrea Garnero, ci dice in due parole, lei perché se lei si trova meglio fuori dall'Italia? Beh, al momento mi trovo dall'Italia, ma l'Italia mi manca. Ah, ecco, no, è tutto qua. Va bene, allora, intanto grazie per il lavoro che ha fatto. Sistema di contabilità pubblica, per favore, INPS, per favore, sindacati. Comunque, viva Garnero che ci ha dato questi numeri, perché fanno riflettere molto sulle cose che dobbiamo affrontare nel nostro paese. Anche sulle retribuzioni e sui contratti. Continuate sulla 24, appuntamento con me, Alessandro Mina, domani alle 8:20, attenti a noi due.